Green Park. Nel 2011, in una parte della periferia nord di Napoli, il paesaggio era caratterizzato dalla presenza di enormi campi non coltivati. Erano terreni su cui i contadini e contadine seminavano e raccoglievano i frutti del loro faticoso lavoro. Ora, invece, era semplicemente terra di nessuno, trascurati e lasciati all'incuria e alla desolazione del tempo. Un anno dopo, questi luoghi vennero sfruttati da uomini appartenenti alla camorra, che iniziarono ad usare questa grande distesa di verde come discarica. Mesi dopo mesi, anni dopo anni, quel posto fu scenario di un enorme traffico notturno di camion e gru per lo sversamento di rifiuti organici e tossici provenienti da paesi e regioni lontane. Il paesaggio si riempì sempre di più, fino a scomparire del tutto dalla spazzatura, che per la camorra significava e significa montagna di soldi. Sulla superficie del terreno si intravedevano materiali di ogni tipo sbucare, come se fossero piante e fiori. Durante la primavera e l'estate, quando le temperature salgono repentinamente, si sentiva un tanfo insopportabile nascere da lì e raggiungere i dintorni abitati. Molte persone sapevano la causa di quell'odore, di quel male, nato per gli interessi della camorra. Ma nessuno di loro manifestò la propria preoccupazione e il proprio disappunto. Nel settembre del 2018, alcuni ragazzi che vivevano nelle vicinanze decisero di cooperare e interessarsi a quella che era una volta una grande distesa di verde. Incominciarono a chiedere in famiglia, ai vicini, si informarono su internet e scoprirono che prima di quel tanfo c'era un campo enorme dove la natura primeggiava. Ora si vedeva una natura morta, fatta di soli rifiuti. Questi ragazzi erano compagni di classe, Giada, Sofia, Michelle, Vittoria, Francesco, Daniele e Alessandro. Tutti erano concordi ad organizzarsi per ripulire quella zona, ormai compromessa dalla contaminazione illecita e mortifera dell'organizzazione criminale, e chiesero aiuto a scuola, nei loro quartieri, per capire come agire. Di cosa abbiamo bisogno per bonificare questi terreni? A chi possiamo rivolgerci? Contattarono alcune associazioni che erano già riuscite in una simile impresa, le quali gli consigliarono di raccogliere delle firme per informare la cittadinanza e responsabilizzare la collettività ad impegnarsi in questo obiettivo, nell'esercizio del proprio diritto di cittadino e di cittadina. Furono preparati due moduli. Uno parlava della pericolosità dei materiali organici e radioattivi sepolti nei terreni individuati. L'altro proponeva un progetto di riqualificazione del luogo, trasformandolo in un parco, chiamato Green Park, un luogo per e di tutti, grandi e piccini, dove si sarebbero potuti riunire, incontrare, giocare e passeggiare nella natura. Un parco delimitato da numerosi alberi, provvisto di giostre per bambini, panchine per i più anziani e per gli innamorati, un campetto da basket, un campetto da calcio per gli sportivi e le sportive, un'area picnic per le domeniche in amicizia o in famiglia e una zona per far giocare e correre i cani. La raccolta firme portò a un risultato inimmaginabile. In poche settimane i sette compagni di classe raccolsero moltissime firme, grazie all'aiuto di una rete di genitori, amici e associazioni del territorio. Quel giorno sembrava un pomeriggio come gli altri, eppure proprio in quel momento, quando erano pronti a portare al comune la loro vittoria firmata da migliaia di persone, cambiava per sempre il destino di quella periferia. Sfortunatamente subentrò il Covid e tale progetto fu respinto. Dal 2019 al 2022 cambiarono molte cose, alcune invece restarono le stesse. I sette amici diventarono maggiorenni, ognuno di loro aveva intrapreso una strada universitaria diversa, ma continuarono ad essere amici. Il loro obiettivo non si fermò. Una volta ritrovata la libertà dal virus, proposero nuovamente alla cittadinanza una raccolta firme. Erano entusiasti del successo ottenuto ed erano consapevoli di dover istituire un'associazione per diventare così una realtà più trasparente e di riferimento nel proprio territorio. L'amministrazione del paese accettò la proposta dei 7 ragazzi e fu discussa nei successivi consigli comunali, dove fu approvata come progetto dell'associazione. I lavori cominciarono dopo circa 4 mesi, necessari per selezionare le aziende che si sarebbero occupate delle attività. Prima si effettuò la fase di bonifica dei campi, la cui durata fu di circa 3 mesi, e poi si passò alla fase di realizzazione del progetto, che durò 6 mesi. Trascorse quasi un anno, ma il conto alla rovescia stava per concludersi. Mancava soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ad agosto 2021 il parco fu completato. Per questo motivo fissarono la data per l'inaugurazione il 1 settembre di quello stesso anno, alle 12. Tutte le persone lì presenti erano entusiasti e fiere del punto in cui erano arrivati quei 7 ragazzi per quel quartiere. Loro allestirono tutto nei minimi particolari, dai chioschi per le bevande a quelli per lo zucchero filato fino a quelli per i popcorn. Al termine della giornata, quando la folla diminuì, spuntarono 2 uomini della camurra che minacciarono i ragazzi, ma che subito dopo scomparirono. Loro poi andarono a denunciare e, dopo aver completato l'identikit e aver esposto denuncia, ritornarono a casa, convinti che non ci fossero stati più problemi. Purtroppo, in quella sera apparentemente serena, ricevettero una telefonata che fu registrata, contenente varie intimidazioni, successivamente inoltrate alla polizia. Questi uomini, già sotto inchiesta, furono arrestati. Mentre l'associazione spiccava il volo e venne conosciuta in tutta Italia, contando più di 200.000 volontari, il parco continuò ad essere apprezzato e curato da tutti, che una volta a settimana ripulivano le zone che gli incivili inquinavano. Con il passare del tempo, l'associazione ripulì l'intera città, poi l'intera provincia, per poi finire l'intera regione. Una delle frasi sulle quali è stata fondata l'associazione è: devi agire, devi fare l'impossibile, perché arrendersi non è mai un'opzione, di Greta Thunberg. Ed anche noi, come loro, dobbiamo credere in questa frase. Questo podcast è stato realizzato dai ragazzi e dalle ragazze della terza dell'Istituto Comprensivo Statale Darmon a Marano di Napoli per il progetto Onda Pazza, il filo della memoria. Onda Pazza, il filo della memoria, è un progetto che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria, coinvolgendo 35 scuole di 7 regioni. Onda Pazza, il filo della memoria, un progetto di Teatro di Eventi, Emilia Romagna, realizzato nell'annualità 2023-2024 in collaborazione con FNAS, Federazione Nazionale delle Arti in Strada, Stalker Teatro e Crab Teatro, Piemonte, Teatro Invito e Pandemonium Teatro, Lombardia, Emiliano Valente, Emanuele Di Giacomo, Valentina Virgili, Lazio, Pro Positivo, Sardegna, Teatri in Gestazione e Baracca dei Buffoni, Campania, Genia Labart, Sicilia. Consulenza scientifica e progetto video a cura di Caracò. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.